America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. At the end of this year, we face a series of deadlines that require us to make major decisions about how to pay our deficit down. Presidente Barack Obama ieri mattina ha lanciato un messaggio, una campagna a favore della classe media. Dobbiamo evitare il fiscal cliff, ha detto, per rafforzare la classe media e dunque la riforma fiscale americana, l'accordo per ridurre il disavanzo pubblico, per ridurre il forte debito, debbono essere pensati esclusivamente in funzione di un rilancio della classe media. Quindi il presidente recupera quello che è stato il tema di fondo della sua campagna elettorale per cercare di mettere un po' nell'angolo i repubblicani. Certo che si ragiona molto attorno a questo fiscal cliff, attorno alle varie proposte che sono sul tavolo. Per esempio, ieri nel dibattito è intervenuto anche Warren Buffett. We're taking in about 15 and a fraction percent of GDP and income in the United States. That isn't enough. Buffett ha proposto una variante, ha detto dobbiamo aumentare le tasse solo per coloro che guadagnano al di sopra dei 500.000 dollari l'anno. Buffett è sempre stato in grande sintonia con Barack Obama. Barack Obama chiede aumenti delle aliquote per coloro che hanno redditi superiori ai 250.000 dollari. Dunque cominciamo a vedere che il dibattito prende corpo con dei punti di riferimento che possono portare a un compromesso che magari può accontentare in qualche modo i repubblicani. Ma al dibattito si è anche aggiunto Paul Krugman. This is basically, if you're thinking about the US economy, this is a lot of money. You know, weren't we all worrying about deficits just the other day? That is very badly designed to help the US economy. Krugman interviene, devo dire, con un punto di vista che a noi europei potrebbe sembrare piuttosto interessante, perché dice: ma in fondo il fiscal cliff è una forma di austerità, perché si tratta di tagliare delle spese, si tratta di aumentare delle tasse, sono degli interventi automatici, significa austerità e stringere la cinghia, cosa che in Europa è ben conosciuta. Gli americani hanno chiesto che gli europei procedessero con certe misure e adesso invece loro vogliono evitare di farle, quindi è giusto che ci sia da parte dell'America questo atteggiamento di rimandare misure di austerità per il timore che possano produrre una recessione. Beh, la recessione in Europa la stanno vivendo giorno per giorno, quindi c'è un po' un punto di domanda interrogativo sui due pesi e le due misure. La mia impressione è che fa bene l'America a evitare la recessione attraverso misure di austerità. È sempre meglio crescere, mettere a posto i conti mentre si cresce, non attraverso una stretta della cinghia che poi può diventare pericolosa per tutti. Quindi la conclusione, almeno dal mio punto di vista, è che sarebbe meglio che l'Europa avesse delle politiche un pochettino più espansive di quelle che ha avuto finora. Ma parlando di classe media, parlando di messaggi politici americani post-elettorali, direi che forse vale la pena di riflettere con una prospettiva da questa parte dell'Atlantico sulle primarie italiane. Grandissima emozione e naturalmente anche un naturale paragone con ciò che avviene dalle nostre parti, dove le primarie facciamo fatica ad accettare l'idea che si possa fare le primarie. Qui sono la regola del gioco perché consente ai cittadini di scegliere e quindi consente ai cittadini di fare politica. Matteo Renzi, lo avete sentito, il sindaco di Firenze, lo avevo intervistato alla convention di Charlotte e avevamo parlato di primarie, avevamo parlato di questo confluire verso questa convention dove alla fine il partito si riunisce, esprime un candidato, si va avanti, si corre poi per la Casa Bianca nel caso americano. Ecco, mi ha colpito e vi ho riproposto questo passaggio quando Renzi dice: beh, dall'America abbiamo qualcosa da imparare. Lui forse intendeva dal punto di vista dell'organizzazione, e quando ci siamo incontrati ancora non era chiaro se le primarie ci sarebbero state, come sarebbero state e così via, così via. Invece poi le primarie ci sono state. La lezione, secondo me, che si può imparare da queste primarie americane è che alla fine chi corre, chi è in trincea, chi accumula punti, voti e quindi seniority da un punto di vista elettorale, beh, alla fine incassa questa seniority, non la devolve, non fa beneficenza. Dico questo perché più volte abbiamo visto durante le primarie come alcuni candidati deboli venivano scoraggiati dal continuare, gli si diceva ma fatti da parte, oppure quando hai accumulato poi i tuoi delegati li puoi regalare a un altro che magari può correre e fare meglio di te. La realtà è che chi corre alla fine i delegati o comunque la seniority politica conquistata sul campo se la tiene. Questo secondo me è quello che dobbiamo imparare da queste primarie americane, perché